devo deporre a loro cospetto, non ne voglio neanche parlare, perché ho visto cosa fanno, so a cosa arrivano, mi chiedo manco di diventare bocca, sono il lodo di Imbrosina, non c'è genialità, punto, questo è il loro problema, non hanno passione, non sono capaci di progettare e realizzare, fanno solamente di palliativi, disastri, che non te li dico, purtroppo la gente è scontenta, a me è capitato quel cliente che mi è ritornato indietro nero come la pece, con la parte di garanzia, quindi CD piccolini, fischiava nell'audio, fischiava un piccolo fischio nell'audio, ritornato indietro che il fischio era lo stesso, non ha risolto niente, cioè le hanno tutte 3 mesi, hanno detto un sacco di bugie, perché erano bugie, poi non conoscono, non capiscono neanche come funziona l'apparato audio di un LCD, meglio per loro, come viene alimentato, per colpa di che cos'è, non lo so. Però non venire a dire che lì ci sono tecnici, per carità, poi pompe di calore in assoluto, io conosco persone specializzate che lo fanno fare dei capelli, quindi bisogna di loro in brussina, capito di te? Quando poi si applica la genialità a riparare macchinari, a fare certe cose, allora non diventa più un lavoro, diventa una grande passione, capisci? La persona si forma, ma si forma per passione, non perché deve fare soldi, lì corrono a fare soldi e di conseguenza corrono anche a fare pasticci, perché poi è inutile nasconderlo, non hanno capacità tecniche, punto, questo è il loro problema, inutile stare lì a girarla, a fare, a imbrigare, sono gli ultimi in Brusse, ma io non trovo altro appellativo. Non è che nell'arco infatti di una decina d'anni da un settore passi a coprirne 15 settori non complementari, ma lui l'ha fatto per diversificare, ha capito da 15 anni fa che questo genere di lavoro, i profitti diminuivano mese dopo mese, anno dopo anno, e ha preferito investire i soldi sulle pompe di calore, sul bianco, sui piccoli elettrodomestici, sulla vendita al banco del prodotto finito degli accessori, sull'installazione di autoradio e di antifurto, sugli impianti d'antenna satellitari e così via, sugli impianti di videosorveglianza, cioè ha provato un pochino a coprire anche gli altri settori della serie. Se frano qui mi tengo là, ma certamente se un medico tenta di seguire 10 branche della medicina, certo non avrà mai la specializzazione di uno che sa da 30 anni l'ortopedico, di uno che sa l'oculista da altrettanti anni, quello è normale, che ci si diluisce, anche se non vogliamo, se lavori 8 ore, se fai 12 lavori vuol dire che stai dedicando mezz'ora, 30-40 minuti al giorno a ogni tipo di lavoro che fai, per cui avrai la specializzazione e l'esperienza di un'ora di lavoro per gli impianti, un'ora di lavoro per quello, un'ora di lavoro per le riparazioni, è normale che si acquisisce esperienza in altri campi, ma ci si diluisce come esperienza nel lavoro che hai seguito per tanti anni. No, ma voglio fare un appunto a riguardo. Io li ho conosciuti quando loro uscivano tutti gagliardi, no? Uscivano fuori con quelli di Ussi, quel testimone di Genova, quello piccolino lì, si può mettere in tasca, c'erano tutti i razzi che uscivano lì a riparare, no? Con vanti dell'altro mondo. E poi non gli funzionava manco una della televisione. I registratori mandati indietro che ci volevano 10 euro, quelli della Filippa e quel kit famoso, per 2 allineamenti un kit lo buttavano via. Sì, io chiedevo sempre 10 euro, 15 euro, ultimamente, anche prima chiedevo 30.000 lire, andavo alla signora Giovanni con kit, TV Color, disintegrati, cose strane, impianti d'antenna lì a Uri, me ne è capitato uno incassato nero giorni fa, ti parlo di 3 mesi fa, dice, proprio quello lì, che lavorava lui, quello di Uri, dice un somaro, e non ho detto niente, è morta la madre e non ha visto mai il televisore. Lui adesso lo stanno operando al cuore, pulsivo, chi è seccato? Però non è moltissimo subito la televisione, un giorno è incappato così, e detto, ma sì, perché no? Ho operato su un paio di dosimetri, ho fatto un bel impiantino, ma niente di speciale. Vede 40 programmi TV digitale terrestre, felice e contento, ma pagato, perché è un ragazzo che paga. Io non vedo questa serietà da parte loro, il committente era quello lì. Ma hanno fatto tante altre cose strane. Ma poi sono andato in mezzo agli gruppi militari, gente che mi ha chiamato con apparecchiature smontate lì. Uno quando non le conosce, no? Le macchine le lascia perdere. Io non li ho visti mai delle persone che analizzano la circuitazione e sanno come è fatta e sostanzialmente capiscono che funzione ha e come può essere modificata per avere un migliore funzionamento, senza naturalmente uscire dalle leggi che sono la matematica e la logica. Io non li ho mai capiti, sostanzialmente non li ho mai capiti. Ho visto solo una cosa, l'hanno fatta bella, quella smart che hanno disegnato gli integrati. Ma non lo so, a me mi pare tutto quanto di me che siano una cosa lì, una vita di effetti speciali, dentifrasi lì, testimone di Genova, smart qua e compagnia bella, detti che non ti dico e poi non venga a funzionare, mai mancuna. Anche quello che ho visto, ma raramente sono riusciti sì a fare qualcosa, giustamente anche loro con l'esperienza di anni hanno anche riparato, per carità, non è che voglio dire che siano così tutti. Però mi occorrono troppo, dico, oppure hanno mollato tutto. Che quando ti occupi di tante cose è come un cuoco, se c'ha due o tre pentole, due o tre tegami al fuoco non è nessun problema controllarli, ma se si trova che deve controllarne 12 tutti assieme può succedere che qualche cosina la tira giù che non è cotta bene e l'altra che è troppo bruciacchiata, sono cose che succedono quando devi controllare troppe cose assieme. All'anima della bruciacchiatura. Ma quindi c'era un incendio, più che una bruciacchiatura. Ma mi pare che non siamo riusciti a spegnere neanche tutte le acque del mare. Ma non è una grande vita. Io vedo così, poi io diciamo non ho mai saputo, non li conosco, non ne parlano neanche le persone. Parlano sempre di questo centro sole, quelli che ho mandato sono tutti contenti. Parlano di questo uomo che lì, che magari non hanno mai visto, questo Vittorio, parlano anche dell'altro socio, ma di meno però, dovesse cagarsi meglio, parlano molto di questo Vittorio, poi non lo so, non te lo sto dicendo, e non è che io ascolto le persone, vedo le cose che fanno, ecco, poi non mi interessa, a me i vanti, vuol vedere cosa fa uno, perché io per male so più o meno cosa c'è in più, quindi mi rendo conto poi come viene svolto un lavoro, ecco, poi ve ne so conto, comunque non lo vedo. Però il discorso è questo, che quando uno si vanta di avere una certa professionalità, no? E si trova di fronte a certe apparecchiature, si fa la cacca sotto, non mi pare che sia professionale mettersi i pannolini. Ecco, questo è il problema. E non sto sollevando una critica, perché sarebbe tutto positiva, neanche una denigrazione, niente. Ma sto dicendo quello che è la realtà. Purtroppo loro hanno delle incompetenze in molti settori. Una volta la Kingwood le era una bastonata in testa, quello lì. Hanno sfasciato parecchi caricature lì, montare, integrati, rimettere, mettendo, togliendo, mettendo, togliendo, poi è entrato Vinci Bradley che dice che era il number one, Guccio il Madi Nudi, invece vuoi provare la cosa, mettendo quelle parabole lì della cosa di Sky, me ne è venuta adesso la cliente che abita qui, Nara di una cicimanna, me ne è venuta il Laponari volendo che dica su a Vittorio il connettore fino di ursido, pur gratis di Brapopato, glielo ho pulito, cioè da Esavresse hanno lasciato il connettore dentro di connettare di vulcanizzante, compreso, per curargli tutti, poi non ti dico di tutti gli altri che ho trovato. Tutti, addirittura il capo spinto, appoggiato il filo, appoggiato, poi con una pratica di alto vento si è spostato, quindi che guardate, ma non la vera che bada, mi fa cado, parabole che si sono staccate dal muro, ma io non so che tagliere sempre gratis a queste cose. ma è, purtroppo è normale quando c'è tanto personale che devi pagarli tutti, li fai correre, molto spesso se non è che sono uno per uno tutti super scrupolosi, può succedere che in mezzo a tanti ce ne sia qualcuno che sia un po' così, un giorno mal di testa, un giorno non ha voglia, un giorno c'ha fretta e quello lo mette il nastro, l'altro non mette il grasso al biossido in zinco per evitare le infiltrazioni d'acqua e l'ossidazione, quello non stringe bene i passilli al muro e il sassero non mette i chiodini per fissare nel caso al muro ne mette due anziché 20 e così via. Quando sono così che sono pagati a percentuali anziché a stipendio, devono correre, sennò a fine mese non vedono neanche i soldi per il biberon nel latte del figlio se hanno figli, quindi devono, mentre chi notoriamente ha stipendio sa a fine mese se ritira su 1.300, 1.500, 1.400, insomma i stipendi mediamente di un tecnico sono lì dai 1.350, 1.500, si prende il suo stipendio, sa che c'è, quindi che piova faccia sole, che faccia molta intervenzione, sa che arriva, quindi se c'è da dare una stretta in più a una viste o una spolveratura in più o una taratura in più, la fa, non gliene frega niente, riesce a dare più qualità di chi è assillato da fare pizzi, se non fine mese ha girato a vuoto. Ma dove è finito lo spirito del riparatore? Dice, io non vedo più, io oramai tu notano quando sali in quei paesi di su, tu, ecco quello che manca a te, guardati il vitellone, tu lo guardi di fronte, no? Però guardatelo bene, se ti capita che scendi vicino a qualche allevamento, guardatelo bene, tu vedrai moltissimi tecnici, moltissime persone con questa forma. A me mi è successo, sarà un mio blocco psicologico, ma mi succede questa cosa qua. Io, basta, sono finito di girarmi a guardare certe persone, non si può, non si può, ma dai, mettimi un premio. Ma non si può parlare, ma se ne ho visto uno, non ho visto uno di quelli agganciato a un finale un giorno, c'è stato un finale di quelli in classe in fondo, di un Denon, di ultima generazione, di quelli a 5 canali, un decoder multimilionario 5+1, e insulì la forza voti che si dai, a Giumano la puta matta conca. La conaglassi ha ridotto un dicche camminende alla vizia conaglia. Ma la sa ridotti di dare, non dico voi, mi deve abbattire, che tu grassi così, curi come l'ha ridotto. Coro mi ha detto. Ma chi mi sa dare a suo manco? Gesù Maria Giuseppe. Gesù Maria Giuseppe, una macchina di gota di 1.000 euro, ma come ti si paga a toccare una cosa del genere? Se lo vedete, bene o male. Meno male, non sono vivo, ma che noi che mi fa questo piacere, mi racconta di storia, ma via, ma fa conca, mi davvero un dito, fa nulla fatica. Ma io non capisco, ma non si può andare a una macchina a fare così, ma non solo quella, ma fa tante altre cose, diverse da quelle, che di professionale non sa niente, quindi io capisco, cioè che tu di copra, sei troppo buono, dito. Sotto questo aspetto sì, troppo buono, mi dispiace però non è questione, tanto benissimo so che non è concorrenza, però arrivato a un certo punto, fondamentalmente, sono tutte attività che vanno a morire, quindi quando non si segue la propria strada con passione, quindi si finisce per avere un crollo totale, perché troppo carne al fuoco, brucia, l'hai detta giusta. Però bisogna anche ricordarsi che abbiamo lo spirito del riparatore da seguire. Ma se fosse quello che ti salva la pelle in mezzo alla giungla? Non siamo tutti uguali e non possiamo come... C'è un campionato di calcio, c'è chi arriva primo, chi secondo, chi terzo, chi quarto, chi quinto e chi ultimo. E così è nella vita, così è nel lavoro, perché... Diciamo che 7 persone su 10 e in certi settori sono anche 8 su 10, vanno per portare a casa lo stipendio, perché hanno da pagare l'affitto, il mutuo, o comprare il biberon del latte al bambino e tutte queste cose qua. Questo è un 8 su 10, quindi il 20% è una minoranza e sono motivati dallo spirito del lavoro, che siano infermieri, pompieri, dottori o tecnici, idraulici o meccanici, ma stiamo parlando di un 18-20% dei vari settori, a seconda del settore si arriva anche al 25%, quindi quasi 3 persone su 10 motivate a dare il massimo delle loro capacità, del loro tempo agli altri, ma in altri settori sono solo 2 persone su 10, e purtroppo è così, questi sono i dati di fatto, e quindi è normale che di quelle 8 persone, che poi sono la maggior parte, c'è chi nonostante non sia così un lavoro fatto per amore, per passione, per dedizione, lo fa, lo fa con una certa serietà, ma ci sono anche quelli che lo fanno solo per la pagnotta, quindi non si mettono scrupoli, e in mezzo a questi poi c'è chi non ha rispetto per le persone, e chi non ha rispetto per le persone non ci mette 2 volte a dire guarda ti ho cambiato questo condensatore, questa resistenza, ci ho perso dietro un'ora tra prendere lo schema perché era bruciata, non si capiva il valore, pulire, staccare, disossidarti il circuito, fare le saldature come vanno fatte a regola d'arte, ripulire con tutti i prodotti il circuito, cambiare il condensatorino, attaccare l'apparecchio, testare tutte le tensioni, vedere se tutti i filtraggi, tutte le cose sono puliti, lasciarlo in prova a mezza mattinata, pulirtelo, spolverartelo, avvolgertelo nel cielo e dartelo. Caro mio, i pezzi costano solo 2 euro, ma almeno di dare 30, tenendo conto che tra IRAP e IVA se ne vanno più della metà in 2 tasse, e poi da quei 15 euro che avanzano devo togliere i pezzi, pagarmi tutto il resto, la mia opera e tutte le altre spese. Se tu me lo spieghi, ma un tecnico, 2 tecnici su 10 si prendono questa briga, gli altri 8 ti ho cambiato 10 finali, ma posso 80 euro, se mica sei tu, dammi 40. Sì, sono ladri, maleducati, intendo dire, in senso di rispetto, non hanno amore per il prossimo, sono dei grandi maleducati quelli lì, ignoranti perché sono ignoranti, perché non capiscono manco quello che hanno fatto, poi fondamentalmente perché hanno smontato mezza macchina e buttato via. Poi non li posso vedere perché si sono sempre reputati dei grandi, ma io mi occo. Io mi occo, io mi dico di mio gabbino, io ho 30 kg e ho fatto un bruglio. Cioè, ma che cosa? Io molto volte dico, ma che devo fare? 10 euro. Ma cazzo dico, ma come si può utilizzare un decoder 30 euro? Porca la puttana, ragazzi. Ah, ma come si può utilizzare un decoder 30 euro? Dico, mi rispondi, che mi chiedi 10 euro alla gente. Ma perché, ma poi sono tutti matti, sono diventati. Poi dico, ma la gente non si mette la mano nella coscienza. Ah, aiuto, 30 euro, ma dai, ma dai. Queste sono cattiverie nei confronti della gente. Ci sono persone anziane, qualche volta mi chiamano 5 volte, lascio perdere, mi faccio pagare 10 euro, mi chiamano 5 volte. Dai, perché non mi cliente e mi manda la vicina alla fine c'è la giornata. Capisci? Cioè si lavora anche con la massa delle persone, ma 30 euro più tu a sintonizzare il decoder. Dai, se, sinceramente, dai, sì, sì un attimino, lo so che a me mi fa la spesa, mi fa insalata, mi fa il carte di coccodrillo, borsette, però di la verità, 30 euro non è troppo. Dipende dai chilometri che fai, dipende dal tempo che ci stai a casa a fare questo lavoro, dipende da tante cose. Può essere un prezzo eccessivamente caro, potrebbe essere un prezzo anche modico, dipende. Io adesso ti giro 2 indirizzi, uno a Costa Paradiso e l'altro su a Santa Teresa, e io sto prende normalmente 22 euro, ma perché ci faccio giro metodicamente, ma se mi giro a te, cioè non ti basta in benzina né in gasolio, e neanche se ti prende il pullman, capito? Io posso farlo a prendermi 22 euro, no, e dedicargli tutto il tempo che ci vuole, ma perché sono lì in giro per altro lavoro, e l'altro lavoro se me lo permette di fare un prezzo del genere, è con tanto di ricevuta fiscale, con tutte le cose del resto, ma perché ho tanto lavoro, ma se mando a te, come fai? Cioè, prendi la macchina da Istri o se abiti a Sassari a uscirci su o ci va, io faccio un giro metodicamente, quindi se ne ho tanti e diluisco, posso fare un prezzo del genere, ma se chiamano un altro che non difende la renda, ma chiunque sia, se prendono, vanno apposta, hanno solo quell'indirizzo e dicono non ci vengo, ma se vanno ci rimettono un sacco di sale, lasciano, perdono mezza mattinata andare su a Santa Teresa e tornare indietro, lasciano tanti apparecchi ammucchiati in laboratorio senza riparare, e quindi è meglio che non ci vanno, perché anche se ne chiedono 50 non conviene né al cliente né a loro, ci rimettono tutti e due. Poi logico, se uno che è di fronte, che uno non deve fare tutti questi chilometri, c'era di fronte al paese, lascia stare, invitami un caffè e buonanotte, ma stiamo parlando dove non deve impiegare né tempo, né viaggio, né mesi e né affrontare i costi, quindi dipende sempre dalle condizioni. È normale che dici, ma io sto giudicando uno che fa lo stesso mio lavoro, anche lui è di Istri, anziché chiedere 10, come me quello chiede 3 volte tanto, quindi lo sono troppo lento io e troppo ladro lui. Ecco, questo volevo dire, con tutto il rispetto per la tua persona e per il fatto che tu vai fuori con un macchinario, lì, vettura, e con attrezzature, e con tutta la tua professionalità, e con un carico che lasci, e che ti sposti, e tutte queste belle cose. No, non ho parlato in tal senso, assolutissimamente. No, mi stavo riferendo a pari armi, no, non gioco mai a pugnalare alle spalle, assolutissimamente, hai capito benissimo. Ma adesso ho parlato in questa istanza, ma io sono sicuro che Sassari e Sassari fanno lo stesso lavoro, ci saranno gli unici disonesti, non è che non ci sono, e tu, assolutissimamente, io, guarda, ti dico anche un'altra cosa, molte volte per l'applicazione non chiedo neanche un centesimo, capisci? Che tu dove vai, che erano 20, 30 euro, 25 euro, e compagnia bella. Ad esempio l'altro giorno mi sono capitati 4 microonde, 3 si sono potuti riparare, uno non si è potuto riparare, e visto che questo microonde, guarda caso, è provosta, era la mia cognata di Gerbona, però purtroppo non ci posso fare niente, allora non le ho chiesto niente, capito? Solo perché il ricambio costava 150 euro in un Whirlpool. Mi viene a correre la magneto e quindi facciamo correre la magneto, quindi ho dovuto accontentarmi di un regalino che mi ha fatto lei, capito? E niente, io faccio anche queste cose da anni, ma parlo dell'amore per il lavoro, voler stare in mezzo alla gente, io sono la gente, sono morto, c'è da fare, sono sempre in mezzo a loro, non c'è niente da fare, è così, il lavoro è quello, senz'altro, però appariarmi, chiedere cifre allucinanti, mi pare corretto, è il caso che il coso lì, il tuo vicino di banco, lo faccia lì, perché con questi vanti che ti hai tirato, si è sollevato sopra Carini che poi non sono suoi nelle sue competenze, si è messo in pilastri allucinanti, magari lui era bravo, poi tutti gli operai sono dei somari, di quei somari, anzi quelli barbuti, scusa, stavo sbagliando la definizione, perché offendere l'asino che ha portato a cavallo Gesù Cristo e a fare veramente danno a quello che è la storia, a quello che è una potenza come Dio, quindi sono dei barbuti. Niente, non di te, non detto, io non sapevo di cosa, ma più distinto, lo so, ho capito quello che mi devi dire, ho capito, non ho più fiducia, forse la fiducia, c'è più imparatori, libero, soprattutto libero incompetenti, ed è inutile, non c'è niente da fare, ma tu mi dirai, hai imboccato una strada tutta da senso unico, è così perché li ho visti, hanno rubato precedentemente, e stanno ancora rubando, quindi non c'è niente da fare. Le persone sono singole, no? Cioè nascono uniche e inimitabili e basta, è una cosa propria, come la patente, non la puoi passare a un altro, e così sei tu, tutto lo stesso, sei unico e inimitabile, come tanti altri che ce ne saranno, io non li conosco, ma boh. E quindi è inutile venirmi a raccontare una barzelletta, non lo so, ma tutti quelli che vedo li vedo così, e comunque la maggior immagine che mi capita è vedere questo vitellone quando li incontro, li penso. Sono in NPD, c'ero uscito, stavo vedendo alcune tratti di memoria, sono punti di vista, perché tutti hanno ragione, tutti hanno torto, sono scelte, non hai capito. Cioè il problema, quando noi ci profiliamo alla Confcommercio, eccetera, cosa mi dicono? Sì, è vero, tu hai lavorato con un certo tipo, in via Torino, e per 7 volte ti hanno premiato miglior centro italiano Philips, però abbiamo visto che ammazzavi di lavoro sino alle 10, alle 11 di notte, 11 e mezza, ti vedevamo in giro. Sì, ti hanno dato questi pezzi di carta, hai fatto molti viaggi, sei stato in giro per il mondo a qualche soldo pure, ma cosa ne hai avuto? Dice, noi con i prezzi che abbiamo fatto senza essere vincolati a queste case, il mondo ci abbiamo girato quanto te e siamo andati dove siamo voluti andare noi, non dove ti ha mandato a finire, capito cosa mi dico? Sì, allora... Io adesso voglio spaccare i miti, no? Un attimino, e ti tengo in una nicchietta, perché voglio tenerti così. A me di questa gente che ha ricevuto primi di questi tecnici fatti a bigliettini di tutto, l'unica cosa che ti posso dire è che possono andare bene a fare la Barbie, ecco, poi questi pigiamini, queste cose così, sono i pigiamini, no? Poi se tu sei riuscito a fare quelle cose, se hai dei meriti, li hai, perché tu sei stato sempre un genio dell'elettronica, hai sempre avuto delle idee geniali. E sei anche, se non sbaglio, sei anche un semiprogettista, quindi conoscerai cosa ti sto dicendo e dove appunto ti voglio mettere, perché lì, perché tu è quello. Però ti pregherei di non abbordarti a queste persone, perché se poi vai a finire lì, allora no, allora buttiamo il timbro, va a finire che anche tu diventerai un tecnico fatto a bigliettini, quelli sono tutti i tecnici fatti a bigliettini. Il fatto che tu abbia avuto questi meriti, che loro dicano, che gli altri dicano queste cose, dipende da quello che ti ha appena detto, capisci? Ora, non bisogna mai trattare quello che una persona è, ma io non di rado sono solito a dire la verità sulle persone, perché non sono geloso, non sono invidioso, e mi piace criticare anche quando è il caso, perché la critica è positiva, ma non denigrare, questo è molto importante. E ti sto sollevando una critica, del semplice fatto che non ti vedo da quel punto di vista. Quindi non ti giudicherò mai un tecnico fatto a bigliettini, Vittorio, e sappi questo. Non so sino a quanto sia importante questo mio giudizio. Comunque, fondamentalmente, hai un grande merito nell'elettronica, a parte i viaggi, che non mi interessa niente, meriti che da te sono quelli del genio che hai nell'elettronica, Vittorio, perché tu lo sei. Non è lì il discorso, che sto parlando a parità di gente, di responsabilità, avere dei dipendenti, avere tante case da assistere, quindi non devi risponderne solo al cliente, devi rispondere anche al negoziante, devi risponderne al reparto commerciale, devi risponderne alla casa, cioè un rapporto a 4, a volte a 5, non è un rapporto diretto, io e il cliente. Contento il cliente, contento io, contento tutto il mondo. Sì, a volte si contenta tuo cliente, ma se non è contenta di come operi, del tempo che ci metti a fare l'intervento, come lo fai, come gestisci l'amministrazione con la chiusura delle fatture, eccetera, o cosa dici, cosa vai a dire, a parlare col cliente, quindi sono rapporti più impegnativi per avere gli stessi consensi. È facile avere un consenso quando io vado dal cliente, mi chiama e riparo l'apparecchio, contento lui, contento io, contento di tutti, ma non so se mi stai seguendo. quello che ti voglio dire, Vittorio, non è che io ho detto che uno se amministra bene il proprio lavoro non va messo in merito. L'amministrazione molte volte, no, è più difficile di quello che è l'arte stessa, sotto certi aspetti, che poi balla, non è vero. Perché se uno non conosce il proprio lavoro, amministra fango, non amministra più niente. Ecco quello che ti voglio dire. Quindi fondamentalmente devi essere preparato nel tuo lavoro, devi conoscere la materia per poter affrontare quello che appunto è la riparazione. Se no, se non ripari nulla e nulla, gestisci un bel corno. Però la gestione è importante appunto per dare merito a quello che tu hai fatto, ecco, nel migliore dei modi, appunto per poterla gestire nel migliore dei modi. Però ciò che io voglio sottolineare, no, è l'importanza della genialità della persona, perché poi la manifesta anche sotto l'aspetto amministrativo, capisci di più, e manifesta anche lì. Ad esempio, no? Ad esempio, io prendo la mia persona, parlo di una persona. Io potrei amministrare, ad esempio, dall'alto alla destra, però non me ne importa niente, perché la mia genialità mi impedisce di fare una determinata cosa in quanto io la trovo convenevole e pesante, e non la faccio, ok? Quindi sotto quell'aspetto potresti essere più dinamico, potresti essere più volenteroso. Magari è questo che potrà fare. Però se tu non sai lavorare, cosa porti a casa? Questo è il discorso, il risultato. Non dire, ma io prendo, gestisco, ho rapporti con l'Inps, ho rapporti con la Camera di Commercio e su tutto. La Camera di Commercio si sa che le soluzioni sono quelle, ci sono anche delle persone che fanno quel lavoro in modo adeguato, ci sono persone che ormai i moduli online se li compilano personalmente appunto, e quindi risparmiano la consulenza. Insomma, si fanno tante cose di un lavoro, e come hai detto tu, il lato gestionale è complesso, è difficile, però non metterlo alle stelle di tu, non metterlo alle stelle, perché trovo infondata una giustificazione nel dire, ma se uno non gestisce bene il proprio lavoro va a fondo, a proprio tu non puoi farci niente, vediamo un po' cosa gestisci. Avvicinando qua una ciabatta che c'è diverse prese attaccate, mi si stava accendendo, spegnendo il ricevitore, anche l'illuminazione del Roswell, qualche falso contatto. Non so cosa sta facendo, allora, mi stava lampeggiando tutto, e ho detto, ma Francia se ne stava, invece la ciabatta sta facendo. Eppure nuova, cade a norma, ma sta rompendo le balle. Non dire che è difettosa, adesso lo sta buttando in muri, quelle, nella sai di rigore, e sono un bubuzzolino, deve essere quella ciabatta. Capite di più? Il problema è quello, è inutile dire che uno che conosce bene l'atto gestionale, tra rapporti eccezionali con la Camera di Commercio, riesce a gestire bene tutto il fatturato, le cose, è pure normale. Prova a non portarci niente in tempo, la vediamo cosa gestisce. No, ma il problema è che, appunto, oltre a saper fare il lavoro, stiamo parlando di gente che c'ha, che tu dicevi, ma qui, ma beh, se quello fa 20 lavori assieme, se si occupa di impianti d'autoradio, di antenne, di paraboliche, di pompe di calore, di cancelli elettrici, di pannelli solari, di riparazioni, di vendita al banco, di accessori, di antifurto, di quello è normale che gestire il tutto, avere un controllo, una padronanza, facendo delle attente analisi di bilancio per sapere dove rende, dove guadagna, dove perde, dove conviene investire, dove no, insomma ci vogliono le idee ben chiare, deve essere una persona che sappia fare impresa al di sopra della media, perché puoi avere anche laboratori validissimi, come hai detto tu, per le pompe di calore c'è gente bravissima, per le antenne c'è dei geni, per quello, però poi bisogna anche saper amministrare per non rimetterci a questare. Aspetta Vittorio, allora, facciamo una scegliamo la cosa. Allora, non mi risulta che ci siano installatori autoradio lì in quella vista che abbiano una determinata competenza, anche perché nelle migliori riviste specializzate non li ho mai visti né sentiti, ma manco la fumata, addirittura, anzi ho sentito, una volta ho visto una lettera che mandarono indietro dalla TV, dove nella traduzione, ahimè, ho letto che erano dei pacchetti fumari, ma vabbè, comunque, scritto Alvin, ma questo era il primo vanto, va bene? Allora, adesso continuiamo, visto che ci siamo. Nelle pompe di calore non riescono a trovare i pezzi di ricambio, non trovano niente, quindi propongono al cliente la pompa di calore nuova. Non mi pare una cosa ben fatta, visto che vedi tu, noi non parliamo degli attacchi che fanno nelle giunzioni, compagnia bella, perché insomma l'hanno visto persone specializzate come Stefano Carboni, che uno che c'è stato mille anni, insomma li ha fatti ridere, vabbè. Ok, lasciamo perdere quella cosa lì, e quindi anche lì, ma la cosa, c'è un po' di basilico nella minestra. Poi, dopo, l'antenna, dopo, su Skype, no, troppo corrono, intanto ne cade una, o si manca, beffa, è quello che dico io, quella che non so, poi chissà, non parliamo dei ricevitori che non capiscono quando c'è un difetto, nel ricevitore quando c'è un difetto nel televisore, e ne so qualcosa perché in cura lì, insomma, parlo di studio, quindi li hanno, praticamente li hanno buttati fuori. Oh, poi, di che cos'altro parliamo di TV Color? Lascio a te l'onore di poterli valutare. Lì va bene, mi ci abbasso. Poi di che cosa parliamo? Parliamo di che cosa? Della capacità che hanno di gestire gli impianti audio. Ma guarda, io non ho visto queste cose che hanno combinato qui in qualche pub, stanno come dicono ufficio, mi sono su Facebook, per i miei vicini comunque sempre arrabbiati dalla vibrazione delle disboccenti. Non si vuole un piccolo ufficio su Facebook per si fare un impianto con pelle satelliche e manca addressa. Non c'è così un impianto come deve essere fatto. Esempio. Quindi poi, questa professionalità. Poi quando apre bocca, non mi ricordo che ho parlato una volta al riguardo di un apparato, non mi ricordo, un film che devi fare. Sai, quelli che se non hanno le casse acustiche con la giusta impedenza, vanno in protezione, limitano la potenza, scorreggiano, fanno un sacco di porcherie. Mi ricordo che ho parlato, pareva che stessi parlando con un signore dal pulpito. Ma già quello mi ha dato un enorme fastidio, però va bene, ho lasciato perdere perché io, sai, sono mistico come un aviatore. Quindi ho lasciato perdere anche lì, va bene. Poi di cos'altro, cosa quali mentito? Non lo so di cosa mi menti. Non dico, ho capito da Ona, Ada. Non lo so di tu. Dimmi tu cosa fai, ti hanno visto, non hai sentito. Perché hanno questa promozione di alto rango? Quale genialità, quale progettazione, quale apparecchiatura? Ma domandando nuovamente chi è? Non c'è niente. Lodura Imbrosina, segnata attività LD. Lodura Imbrosina. Presente Luglia per il sistema. Noi che ha il centro più grosso a livello regionale che insegue con la Roncola. E poi il prestigio parte da lontano perché è stato per tanti anni istruttore alle professioni, non alle professionali, a San Camillo, quando si studiava elettronica, era l'unico centro scuola negli anni 60 a San Camillo, quindi molti tecnici tipo Gianfranco Carta, tipo Prospero, il Negro, eccetera, eccetera, e Nicolò hanno fatto parte di un elenco, sono stati suoi allievi, quindi hanno sempre questo rispetto che ha l'alunno per il suo insegnante, e quindi ecco perché tanti riparatori da tanti decenni hanno un rispetto particolare perché non sono stati né alle industriali né alle professionali né qui né là, ma sono stati suoi allievi, quindi hanno avuto modo di conoscerlo come loro professore, quindi una persona preparata, colta e che sa fare il suo lavoro tutto lì. Adesso mi hai fatto ridere di te, mi hai ricordato quel Mutumbo, il Mutumbo, sì. Poi che lingua mala aveva, visto che sono cattivo e dico un sacco di cose brutte. Ma io vorrei capire, no? Vorrei capire. capire cosa diavolo combinano. Ecco, questo è il bello. Perché i videoregistratori, insomma, credo che abbiano preso il premio Nobel per i tipi di plastica che ci sono avanzati, tutti quelli che ci sono stati avanzati tutti. Poi non capisco, non esiste mai fare un'inserzione in nessuna rivista. Qualcuno che si è guardato è caratteristico, non lo so, ma a prescindere da quello, non ne ho mai sentito parlare, non lo so. Il Mutumbu non si può essere trasformato di cosa, a meno che non sia andato a Lourdes. Allora sì, allora ci credo, però diversamente, ma lì rimarrà sempre lì, non lo so. Bisognerebbe sempre capire il bianco nero, mai a colore, e che si troverà nel suo habitat. Poi quell'altro che hai detto, non so manco chi sia, penso che mai sentito parlare, non lo so. Io questa nomina di altro loco in tutto il mondo non l'ho mai sentita, tantomeno a livello regionale, neanche, alla fine neanche a Sassari. Io, visto tanto di cappello, non sto dicendo niente, ti sto ascoltando e ti credo, sarò sbagliato, e quindi mi costargo il capo di cenere. Continuo a pensare che comunque abbiano il Mutumbu, abbiano insegnato comunque il Mutumbu, non hanno insegnato un genio delle fronte, è un Mutumbu, basta. Io non so più cosa dire, io rimango all'inizio, poi sento da te, tu mi stai facendo male, tu quando mi fai così, no? Ti stai dando delle colpe all'altro, ecco, stai ammazzando, sentire che lì tu ha fatto successo, perché poi in quella scuola c'è un vibrativo, poi perché in quella scuola c'è un altro, come si chiama quello lì, tipo da fuori, insomma anche un casino, non lo so se è una palestra o che cos'è un centro assistenza, tutti mi dico che diavolo è questa cosa, non lo so, dico, non ne capisco più niente, ma io ne ho trovato uno, l'unico che è venuto per essere a no, non a me, mi ha disturbato, mi faccio mamma di domenica. E per fortuna che mi ha disturbato che, dico che la penna vecchia l'ho imbollata ora. L'unica che era che hanno messo qua, poi tutte quelle altre io non ne parlo. Ma tante altre cose, fate senza amore. Oh, insomma, allora se questa gente da Oxford ne fate le staffe, ma chi sono questi? Zitto, ma non sai chi sono? Dimmi chi sono, parli di un dominio, chi sono? Toccare c'è un dominio e mi amico Sala, una persona in gamba. Ciondolino sarebbe stato pure un gran bravo tecnico, però se l'ha presa le donne, le uscite, la sera, le pizzerie, le cose, poi loro mio. Guarda che Ciondolino è comunque un bravissimo commerciante, ha comprato un locale da poco, sarà a 700 metri quadri, ma bello veramente, bello nel senso che per quello che usa lui, per i mobili è una cosa impressionante. Ma che vendimi, in Corsica un giro, se non ti dico, fai soldi, appunto. Però è rimasto sempre malandrino con le donne. Ma voi mi dice la punta. Non parlo, uno non può essere perfetto, già lo so, già. Foglie ne parli, già, avevamo un certo livello di confidenza, ti sto parlando di una trentina d'anni fa, quindi insieme anche a altri impresari, lì, Morcani, eccetera, anche quello, ci avrà 4, 5, 6 figli, Andrea, quanti, non so quale fine ha fatto, sono 30 anni senza vederlo, lui, anche di più. No, già, è sempre stato su quella strada, così da giovane, e gai ha seguito. Guarda, questo qua l'ho chiamato che ha messo la camera a mio figlio, e stavano parlando così, e te bada, e te bada, io è venuto sempre dinamico, e te bada, giù a me per il Zagabrea le vanno nel letto, non mi si accusano, mi è venuto dopo 15 giorni, ho dovuto aprire uno spumante di marca, comprato apposta per lui, era mezzo champagne, no, buono, capita, buono, l'ho trattato con i guanti. E su Maria, attualmente stanno tutti meno reddi che nel laboratorio a me, no? Pensami da me, con questo. E lui una volta si girò il cambio di gambo, un certo gambo qui in zona, adesso sono in prigione quel povero uomo, si girò questo camion e c'erano mille televisioni, ancora mi ricordo la scena, no? Entra un giorno, essi mi porta Giallicodeo, mi passate, e se paga assicurazione, fammi sui mari, si prende i soldi dell'assicurazione, fa tutto, e si vende tutti i televisori ammaccati. Non sulavo con il televisore, lo vendiano, faccio cliente che andate in barriera, vado una fiesta, vado in dittatura, ma così inizia, capiamo che non stanno avanti di manco, via, e non si ne fa da più. Visto, mi ha venduto, era simpaticissimo, mi ha venduto un casino, tutte se le vendute, tutte, si è incassato subito dall'assicurazione. Era un ragazzo misto già, me lo ricordo, con lui ci aveva lavorato uno che era stato a scuola con me, un pezzo di pane, quel ragazzo, la banana di Zamburreggio, lavorava nel laboratorio con lui, così è. Povero Piero, poverino, mamma mia, quel cristiano, mi è piaciuto un casino quando è così, è cazzo, ce n'è morto così quel cristiano, un pugno di mosche. Lavorava, si dedicava a un casino. Quindi, no, allora, tutti dice questo, no, il popolo, che lui praticamente beveva pure perché aveva questo male, no? Beveva per questo. Si dice che invece l'ha ammazzato la biuffia, insomma, poi alla fine le cose si mescono, diventano minestrone. Però era attivo, ti dico che lavoravano di più, ma in quegli anni era anche qualcosa di significativo. Cioè, lavori ne ha fatto. Poi, vabbè, diciamo che non abbiamo mai avuto niente qui di speciale. Io, sinceramente parlando, per l'esperienza che ho io, italo-americana, se vogliamo chiamarla così, per le conoscenze che ho, che ancora vicino, devo dire una cosa, una forte preparazione l'ho trovata nella tua persona. Ma questo poi, questo amore, questa... si vede, dico. Io ritorno sempre lì, cioè, tu puoi girare quanto vuoi, tu mi vuoi deviare, no? Dicendomi a me, ma guarda, forse tu mi stai facendo utilizzarlo nel modo sbagliato. Ma ammetto pure che non abbia certe conoscenze, non è che hai 7.000 cassetti di riserva, chiaramente certe cose manco ci arrivi, non è sul sì, ne sono tutti sicuro. Però quello che sai, lo sai veramente, e questo conforta molti nemici, o se li vuoi chiamare rivali, li conforta perché poi li butti nella conforta, se li ci butti naturalmente, te lo sai che in queste avvicinabili, e mi diverto un mondo, perché quelli dicono non è possibile, no, non mi dico, capisci di più? Poi ho preso bene, no? Cioè ho preso in certi lavori, e conosco l'entità delle cose fatte, quindi mi rendo conto a sua volta di che cosa uno fa, di che cosa non fa. Però fondamentalmente, di tutto, mi devi dire una cosa. Adesso, sinceramente, detto tra me, allora, questi vitelloni, dove li mettiamo? Bisogna fare un recinto e metterceli dentro, perché vanno lì dentro. Non ho più visto un vero e proprio fratello operaio che abbia fatto le cose con passione, perché hanno tutti disestratto, danneggiato parti dell'automobile, suoni schifosamente potolenti, audio che non ti dico, Woody mi fa sempre con un strumento che ho fatto il ministero di Norigia, poi vengono fuori dei pandemoni di apparecchiature, bassi che ti sventrano, rumori dentro, insomma non devo dire un accidente che sai fare, ecco, un esempio, ma non è che vuoi andare a finire lì. Ci sono tante altre cose, piazzano Santenni, Udai, gli vedi, ti dico, Leo, 400 euro, 400 euro, ma non ha fatto niente, un'antenna normale, ehi, ma questo è fra carro, a parte di quelli che sono insegnati più tanti, quella gente lì, ma noi siamo specializzati, non siamo, qualcuno le ha risposto, voi siete specializzati per fare soldi, ma anche quello non si fa. C'è un'antenna, la monta, il più piccolo pallino così sulla faccia della terra, se appena sa collegare il VHF o HF all'antenna giusta. Non è che deve sapere chissà che cosa, siamo specializzati tutti. Non riesco a capire, poi lì vabbè mi danno fastidio, ecco il genere di persone. Tu, come hai detto, ognuno fa le sue scelte, crede nel suo Dio, nel suo idolo, sarà un idolatra, lo ripeterò sempre, però io dico, non sono stupido, ho capito, lo conosco bene, però mi dà fastidio, no? Quando io ti capisco a te, ti capisco, stai venendo atto, sei un loro collega, non sono miei colleghi, neanche il mio tumbo. Sta venendo a tutto quello che vuoi, però guarda, quindi secondo me è sbagliato, mettervi sui piani che non meritano, perché poi va anche a denigrare il tuo modo di vedere, che magari è giusto, e come tutto uno pensa che sia sbagliato. A me sono loro che vogliono far passare per normale quello che è anormale di tuo aspetto. Ho capito che vuoi dirmi tu, ma io non ho scatto le piene, cioè io sono nella stessa città di questa gente che dici tu, io sono tutti i giorni, casomai dico guardi in che condizioni c'ho l'accettazione, l'ho sempre tenuta ordinata e pulita come un'orificeria, guardi, c'ho di scatoloni l'accettazione, che per il mio modo di pensare, di lavorare, è un'assurdità, sono in queste condizioni, sono stracarico di lavoro. Sia gentile, questa marca la cura questa persona, vada lì e glielo vedi tu. E quelli, chi? Come? Da chi? Ce l'ho detto, ce l'ho brumba. Tutto il disinnamoramento sui gravagli, che brutti che sono, mamma mia che brutti che sono. Che brutti, un giorno mi viene questa donna, dico questa è bella, Allora, sai come si chiamava quel condizionatore? Allora, aspetta, quello francese. Allora, mi viene questa donna, io già mi ricordo la marca, mi fa, ti dico me, mi piacere, mi rincraccia nel telefono, oltretutto neanche la mia città. Anche se ci sono i semafori, continuo a chiamarlo paese, questo posto, lo chiamo bungalow periferico. E niente, secondo me ha avuto problema, sono io bivalvo, ecco cos'era, perfetto. Vieni, curve. Curve, va bene, ci ho passato la mia cultura, lì con l'azienda. Come hai detto me, ha questo problema che non si è ridotto. E te basta stesso, signora, e te, vado lì, mi sto a vedere. Cosa succedeva? Questa macchina si resettava praticamente. Ma mi ha conosciuto. A un certo punto, vabbè, si muove il frontale, finto, mi fa, non ce n'era, controllo tutti i vari sensori, controllo la centralina. Siccome ho visto la commessa, ce l'ha sostituita nuova. Mi tu, all'inizio si è sbagliata. Resa, subito che vai avanti una resa, mi sbagliava di prima esterna, fu collegata in questa resa, entro, si avvide, aia da che non si dado, abbagli cardia, no, abbaglia presentata, resa taglia, se li si bagliava, beh, taglia casino, se li bagliava, buonanotte. Levo dubbi con le vini, la ripetino, e ha preso io, santo cazzo. Questa persona che è facciata, 1,30 m a Montenadriglio. Così, purtroppo è sempre il discorso di prima. Quando c'è gente che anziché garantirgli uno stipendio, farli lavorare con tranquillità e farli innamorare di tutto il lavoro, li fai correre come cavalli con la biga attaccata dietro, soltanto è normale che devono fare un certo numero di pezzi al giorno, se no a casa non portano neanche un terzo di stipendio e fanno tutti questi casini, per quello che non penso che, come potrei capire, a mettere, collegare bene, o se il figlio è sottodimensionato, a dire signora qua chiami un elettricista, si faccia mettere i cavi della sezione adeguata dal contattore fino a questa presa, perché questa è una macchinetta che può lavorare anche tutto il giorno, che consuma 1.000, 1.500 watt, dipende da quanti BTU ha, eccetera. Non ci vuole niente, se lo fanno che se ne fregano, perché stanno curre, curre, curre, curre, curre, tutto curre, tutto curre, tutto curre, tutto. Ma il terreno, siamo un tantissimo curre, che poi cos'è successo? Hanno iniziato a entrare questi qui nominalmente, quelli della Arelai, sono gente condizionatore, altro caso in Ixas, campo caso, Gusso, che non ha avuto un altro figlio. Quindi di luna in Italia è nata. Cosa mi dici? Tutta pelle, è bloccata. Senti la serietà di questi imbecilli. Telefono al rappresentante, addirittura non portano, quelli da portatore, si chiama Supercale, non mi ha mente comunque. Quello è un maleducato che non se lo chiama, una cosa impressionante. Vabbè, siamo un tecnico sul continente. Inizia, poi lo sportellino sul frontale, lui dice pulisca quello, che guardi che quindi allora è chiaro che ha un problema il software, perché guardi che non risponde costante, se fosse qualche sonda il slegamento lo farebbe costante. Nulla, si la iatti di un audio, si la iatti di un audio, a un audio di due, si vede betonava, ma era più compreso. Ma guardi che a volte parte, accenna, tutti porco qui la va bene, mi deve anche dimentare. Tutti quanti di tutto, aiuto, di lavoro, cosa si raccolvere, Maria, sonda di fumo, tutto pulita. Bene, perché la pubblica tonale, adesso mi dica cosa altro devo fare. Adesso dice l'Agi, guardi che sul punto di servizio lo metto al 52, bene, fatto che tu giustaggi. Dite, mi farai a pelle, una sendiera, ma manco si può televisione, ma manco si può televisione, torro il telefono. Ma guardi, c'è un problema del software, l'ho provato anche a resettarla. Quella macchina, glielo dico io lo già, siccome avete montato la scheda al gruppo CPU, proprio sotto il punto dove la stufa, io ho misurato col termometro, raggiunge circa lì, mi pare che erano 650 di gradi, se ho misurato bene, se non sono orbo, quindi un CPU massimo arriva a 85-90 gradi, dopodiché iniziano i problemi. Non parliamo delle forme, di componenti passivi di contorno. Ecco perché vi sta difettando, questo è il problema di quelle stufe, ce l'hanno tutte quelle stufe, manco un altro dito si avvicina che mette in stufa con lo stesso problema. Cacchio, c'è il telefono, lo appiccico. Va bene, ci sentiamo in seguito, faremo dei settaggi, pam, e c'è il telefono. Allora, quelle stufe sono ancora così vicine, ma come si può progettare una macchina mettendo una centralina sotto il popolo di una stufa che sviluppa gradi e gradi e gradi e gradi? Assurdo mettere una centralina in quelle condizioni, ma che serve l'audio la gente? Questo è il discorso di tutto. Questo, a prescindere da quello che potrebbe essere l'assistenza, come ti rispondono, come si comportano, secondo me non li si manchi su di usare. Quello è lo stesso del pellet, è una moda, molti si sono buttati a costruire, addirittura hanno portato via mercato a case come determinate case italiane e francesi che fanno stufe da secoli, non da decenni, da secoli, quindi hanno tutta l'esperienza necessaria per costruire anche stufe a pellet oltre che a legna, con tutti i crismi, con tutte le attenzioni necessarie per non fare questo genere di errori madornali che sta elencando tu. Purtroppo sono stati molti, hanno investito in quel settore, ma hanno investito a prendere e produrre. Hanno preso un tecnico, termotecnico, Fahrenheit, tu, e quello hanno preso, messo in produzione, vendute, e poi sono trovati con questo genere di inconvenienti. Volevano approfittarne dell'onda, della moda, delle soffiatelle per incassare svariati miliardi. E purtroppo a volte sbagliano i progetti, si affidano delle persone incompetenti, mentre chi ha deciso di fare la fabbrica di soffiatelle, se non era un ingegnere termotecnico, ma era uno che aveva soldi, che voleva investire, si è affidato alle persone sbagliate e i risultati sono quelli. Poi ho visto, no, nel settore soprattutto delle pompe di calore, questo me ne è capitato uno ultimamente, un 11.000 BTU, no? Adesso arriva questa macchina lì con il calore, non mi ricordo bene la marca. Tutto, questa cosa è bella, questa ve la devo volta raccontare. Cercherò di essere breve e conciso. Vorrei una favola, gli regalano questa macchina a questo ragazzo. Tagliano i fili, la portano in un'altra casa, la monte termoidraulico non ci riesce, e iniziano a lasciare arrivare una marea di persone, di tutti. Gli ultimi addirittura se ne sono andati via, e poi c'erano quelli di quella vita che tu conosci, sono andati via, se ne sono arrivati altri, sono usciti, sparati, non hanno salutato un'altra signora, con la paura di vederla di aver fatto questa figura. Ma volevo la favola, questa macchina andava a funzionare, poi precisamente al momento che doveva partire questa storia non funzionava. Mi chiamava, dice, questa bella, arriva a guidare, e a ciao, non sono connesso di tutti i tutti. Ha fatto tutto il suo contatto, visto che la sua macchina è ampliata della protezione sul motore, una protezione di sovratemperatura, no? di sovrapressione, perché hanno acceso di colpo, è partita la macchina, è andata alla protezione, la sovrapressione, staccata completamente, rimasta inchiodata, quindi il contatto era normalmente chiuso, si è aperto, non si doveva più. Bene, hai passo la protezione, visto. Rivado su. Ma cosa avevano fatto? Avevano messo la centralina in una posizione sbagliata, siccome in certe centraline c'è un sistema che si chiama watchdog, cane da guardia, quello lì. Proprio il cane da guardia della macchina. Praticamente tu qualsiasi mossa gli fai a questa centralina, o che la sposti, o che la prendi, o che dai un colpo alla macchina, spegni tutto. La rimetto in posizione, la riassesto, bene? Controllo tutto quanto c'era, i cavoli fili perfettamente, dice. La faccio andare, accende la macchina, parte il compressore, funziona. E l'avevano lasciata scarica, dice. Avevano messo solo il 50% di gas, non solo l'elettronica, ma neanche il gas erano riusciti a fare. Li richiamo. Un metro sotto. Bene, arriva questo, sta facendo della potenza. La panna di uomo di cuore di destro, che lo sai guidare, la panna di chi arriva, comunque di tutta, ma chi guidare, tenente, no, la panna di chi arriva, appunto e basta, non è che si intende, nulla, beh, hai questa, te la faccio vedere, la sua sicella già, ma un'ignoranza di te, lei ha deciso di fare a palla, attacca il macchinario, inizia a fare il vuoto, come Dio comanda, le spinge, gira sì, finché cresce, cazzo. Le molla il gas giusto e inizia a vedere il gas circolare, ma lei è illusione, allora sul gas si prende, carica la macchina di su, un orologio, tutta sassa che ci è passata, ma non è una vergogna, tutta sassa, e io riprendo quella macchina tutti davanti, alla centralina, chiamiamo Tizio, chiamiamo Caglio, la centralina Betta, detto, la centralina della vostra testa è a Betta. Poi io sono di collegamento, avete fatto danno nella macchina. Ecco, se uno deve mandare gente del genere, poi adesso mi dici di questo, cazzo, perché l'avevano regalata a quel ragazzo? La noa, non esisti. Sono tutti matti. La frenesia che porta a fare anche questi errori di valutazione. Diversamente penso che non abbiano nessun interesse a fare certe cazzate anormali, purtroppo ci cadono perché sono lì ma sono con la testa agli altri impianti che devono farsi in giornata, e quindi non ce la fanno a concentrarsi, a avere la lucidità necessaria per risolvere questi problemi che tutto sommato sono anche abbastanza semplici, perché la colpizza è per qua e là, se è un lavoro che conosci non dovrebbe esserci nessun problema a risolvere queste cose. Sempre la solita storia, secondo me sono le cose a scimmia. Due colpi di testa, se dati male non rimedi il difetto, due colpi di testa erano, non due colpi di testa, anzi più di due, perché c'erano quattro giorni, non sono andati neanche a mangiare gli ultimi che sono venuti. Subito, no, sono incapaci, capisco. L'elettronica e l'elettromeccanica hanno una fondamenta che è ben radicata nella logica, mi dispiace ma è così, c'è da fare. Una persona non può fare un ragionamento opposto a quello che è il funzionamento della macchina in condizioni normali, assolutamente, devono essere capaci anche di spucciarsela la cosa, non aspettare che gli altri facciano il lavoro. Troppo comodo che te lo sistemata io, poi mi sono preso 40 euro, dopo 2 ore di lavoro rimediando tutti i casini che hanno fatto loro, figli investiti, volando, fonde messe all'aria, e poi stavano anche parlando male, di una maleducazione unica. E parlo come non la fa una delle due piccole buche all'omaggio, a me un piccolo è rapido, mi sono pure meglio di un in cottage, ma chi è maleducata così, guarda, ma tutti di proprio, ma proprio ci vuole la centrale del tuo volume, sì, silenzio un attimo signore, questo è colpa vostra, boh, è tutto invertito, ma veramente quanto ci può capitare, no? Scusa, l'ho invertito, ma è capitato perché me l'hanno tirato pure da Monsetti, dico, è inutile andare a difenderli, quando non ci vuole, non ci vuole, oggi è diventato un ladrone. Non c'è più rispetto, non c'è più professionalità, alle persone stanno correndo a manca a destra, chi si radica, chi ha ingegno, chi è geniale sono pochi, pochi, basta, il resto o sono lì vitelloni, o sono tumbo, gente da chiudere il cinto, non lo vogliono neanche sapere, non mi interessano. Beh, no, mi sono arrabbiato perché cosa sai perché lo dico a pelle, no? Rimango disgustato da cose allucinanti, oppure come quella che mi telefona, tutti i sigari, fisica di me, riga, che dire sta sempre nella NOA, c'è la patrice mia, signora, ma è questa macchina, una unica elettronica che tu, di altissima digitalizzazione, e te l'hanno fatto, macchina provata di usare la vettura centrale, macchina no, per gassata, e te pintrada, ma se mi sta di più, avemmo, e te pintrada andando a lavorare, e quanto l'hanno preso fatto, non ti annuda, e te l'hanno preso, un gatto, perché tu dai, vittù, coro me, tutto, ti metti con un relevo a suggire del motore, come si fatto la vittù, a giù mangiano giù molto, la prima di questa doppietta, la guarda la copia delle mie giocchelle, ma che l'hai visto, ma giù si fatto, le ha sentito lei, non è molto uno, vittù, ma cosa allucinanti, cose allucinanti di mantero questa mistera, ma poi cambiare mistera dai, invece ho preso da finire una cosa di levamento perché era un colpettino il motore all'inizio, no? Se tutto a posto carica l'acqua, se non entra in carica, quando poi fa il bico per fare delle ambiche, posso lasciare per tutto, si comincia a manovrare, ma cose allucinanti, milionare, ma dai, ma perché mi viene a capitare? Tanto niente, non serve a niente, sono gli sforzi di chi ha voglia di lavorare, non servono, io ho questo sicuro, mica te lo garantisco. Volevo chiedere, se hai guardato quella che quella è marrita che l'hai trovato? No, già ci sono sceso in cantina, ma non ho avuto modo a prendere, a metterci un po' d'apparecchi, correndo anche noi, e non ho avuto modo di... Cioè, la vercela ce l'ho perché non mi ricordo le scatolazze, sia la Philips e forse ne ho anche qualcuna nuova di quelle 500, no. Quelle altre sono Mullard, quelle accoppiate. Ma ora me ne vado a riposare, vado a svaligiare il frigorifero adesso e mi metto a letto. Ci hanno fatto una mezza chiacchierata, prossimo giro, prossimo turno, e domani c'è da fare i chilometri lo stesso. Sì, già lì quindi riesco a parlare di Giubaba, tu a me mi dato sempre a piccolo, mi dato le pagelline e avvole che a mie, come già me la pubblicità non avevo usato la tavola di imballata, da, non mi rompa sta mazza. Quindi ho preso buco e ho preso batto poi il corso, mi dico, io non so dare potere, mi erano amici, che ha vinto su me, io sono passato bianco, si ricordava con cartella, la posizione così in conca, compreso. Peluveria, peluveria, da come ha un trick nel suo commento. No, no, gusto che era da casa. Mamma mia, era su un di casa. Oh, abba, se mi devo dare una legge in ballata, ma il transito. Io ti conosco, tanti questi punti, nemi. I due creo, mio, è una faccia di bagliere, ma credo che ti torna anche Napoleone, di tu. Per capire, sul tuo mese non ti sento l'UCB. No, beh, me ne sto andando a valigiare per voi, farò poi un metto a letto. Ci sentiamo, ciao. Quando una me la casa? Domani. Sì, se ce l'ho scappato, ti ho detto di sì. Dammi una ricusa di impacchettata, già. Compreso, sono atteggi, sono attenori. Dai, se ti viene a copiare, ci vuole che dovete farvi per tranquillo, no? Dammi di una. Lasciare con le non si toccano. Quale sono il zio? Ciao. Hai testa ghiando, non mi raccomando. Ciao, ciao, buonanotte. Ora. Sì. Vittorio, un amico. Vado a ascoltare a tuo zio, là. Che c'è zio Pisa. Sì, vado, con una corda. E chi è questo? Chi è? Che meraviglia, andiamo. Senti su di te, senti di te. Oh. Quanti anni ha? Se ti interessa, a me. Io però, per farli, mando il mio futbolista, io mando il mio futbolista. Io di carica gas non ne faccio, io faccio solo la programmazione e l'elettronica e l'elettromeccanica. Carica gas, no, io la faccio qua. E bisogna vedere cosa c'è, può essere qualche inversione, lì che non va. Vabbè, a quel punto bisogna vedere come è messa la valvola di scambio, come, che cosa il compressore sta pompando, se fa via, cosa fai, se bucherà, vai, la devo vedere. Devo vedere, io posso anche aiutarti, la voglio dire, una via magari di un'altra, si andrà bene. Non userò la idina con questo. No, sai perché ce l'ho una digitale da qualche parte? Dopo che devo guardare, mi sembra che lei non proprio qualcosa, non mi ricordo, sinceramente, o forse ce l'era presa mia sorella, mi sembra che da lei ci uscivano quelle. Quindi magari. Che rubia. Ma che rubia però, non intendo. Signora Farena, signora Farena, boh. Ma tutto altro. Boh, non me la fai vedere quando sono. Quando sono me la fai vedere, quella è bella per fare le pubblicazioni, no? Sì. Guardiamo. Non è un problema, non so. C'è la linea. Commento forse la musica. Che è il gas? Aspetta, poi ho detto che la batteria, aspetta.